Il re, il nibbio e il cacciatore, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Al principe di Conti. Poiché son buoni, buoni desiderano gli dèi che siano in terra i re. Non perdonare, ma sol di fulmini andar superbi, santo non è. Questa è legge per voi, principe, in cui non nasce quasi che già vinto muore ogni corruccio. In ciò, più che il Pelide, voi siete grande, il qual fu meno eroe quel dì che schiava rese l'alma all'ira. Di questo nome è sol degno colui che, come già nell'aurea età, di mille benefici beata empie la terra. Pochi nascono grandi in questa nostra umile etade, ed è sol grato il mondo del mal che i grandi agli uomini non fanno. Non che seguir questi comuni esempi per mille generosi atti, o signore, avrete più d'un tempio ove d'Apollo del vostro nome suonerà la cetra. Poiché sarete un secolo rimasto nell'amplesso di mene in mezzo a noi, né vuole oltre i cent'anni il desiderio rimanere quaggiù, entro il Pelagio andrete ove vi attendono gli dèi. Imene intanto coi suoi dolci affetti compone a voi corona ed alla sposa qual meritate e qual possono i tempi concedere quaggiù. Meno non vuole l'alta bellezza di colei che è vostra, né meno il valor vostro, onde nei primi anni senza rival vi colma il cielo. Nel suo spirito regale essa congiunge e perfeziona ogni celeste incanto, quel che è degno d'amor e in un di stima. Ma per non dispiegar oggi ai profani l'intime gioie, qui m'arresto e passo a rimar quel che fece un uccellaccio. Da vecchio tempo, possessore un nibbio del suo bel nido, in mano un giorno cadde a un cacciator. Costui presentasi al sovrano e pensa fargli un dono degno di lui. Ma l'uccellaccio, giunto innanzi al re, seppur il fatto apocrifo non è, sul naso gli saltò, con l'unghie e lo graffiò. Che, graffiar sua maestà? Che caso? Non avea ei corona e scettro in mano? Che fa lo scettro e la corona? Il naso d'un re val quello d'ogni cristiano. Corre, grida la gente e s'agita la corte, ma impassibile il re si mostra e forte. Che strilli un re vi par forse decente? Sopra quel naso lo sfacciato uccello come nel proprio nido si accovaccia. Invan grida il padron e col zimbello cerca a tirarlo e invano lo minaccia. Ridendosi di lui, dell'altra gente, avresti quasi detto che s'era persuaso il nibbio maledetto di passar la sua notte dolcemente su quella sacra maestà di naso. Quando alfin si risolse e prese il volo, lasciatelo partir, disse il sovrano, e parte anche costui, ma senza duolo. Ognun fa come può, da nibbio in nibbio e da villan villano. Non resta dunque a me che d'operar da re. Ammirano ministri e cortigiani quella bontà che imitan così poco. Quanti sono anche i re di questi tempi che aman seguire i generosi esempi? Il cacciator partì, lieto che in gioco finisca la faccenda, ed impararono uccello e pastricciano che bene gli illustrissimi padroni riverirli da lontano. Del resto io riconosco che eran felici se cresciuti liberi, non conosce anche gli uomini del bosco. Nacque Pilpai, che queste storie scrisse sul Gange, e sempre in quel paese visse ove dell'animal sacra è la vita. Nessun mortal, nessun osa dei re sparge nel sangue, e dicono il perché. Forse lo spirito egli è di qualche principe che sempre ad Ilio fu di grandi eroi. Ciò che egli fu non può diventar poi? Secondo quel che predica Pitagora, in un cogli animali cangiam noi. Oggi scorpioni od uomini, diman pesci o volatili, che solcan l'aria, e creda chi vuol credere. Del nibbio, o falsa o vera che sia la bella favola, la contan pure in quest'altra maniera. Un falconier che preso avea in caccia un nibbio, uccel difficile a pigliare, al re ne fece dono, come si fa con le cose che sono più peregrine e rare. Prendere un nibbio vivo è il non plus ultra per un falconiere, e capita di rado di vedere. Pien di smania e di zelo, il cacciatore, come non fu già mai, si mette in mezzo ai cortigiani e spera trovar la maniera di far la sua fortuna con lo strano uccello sulla mano. Ma l'animal selvaggio, che non è abituato agli usi del paese, con gli artigli di ferro il naso prese del suo padron e il viso gli graffiò. «Ai, ai!» questi gridò. «Ridono i cortigiani e ride il re. il riso fa buon sangue e dico il vero che non avria caduta la mia parte. Il riso fa buon sangue e dico il vero che non avria ceduta la mia parte nemmen per un impero. Che un papa sappia ridere in fede mia non giuro, ma un re col viso oscuro che storcere la bocca mai non sa mi fa proprio pietà. Piacer dei numi è il ridere, e in mezzo al grave affanno che gli affari del mondo in ciel gli danno, ride il buon Giove, e ridono con tutti gli dèi che son. Piacer dei numi è il ridere, e in mezzo al grave affanno che gli affari del mondo in ciel gli danno, ride il buon Giove, e ridono con lui tutti gli dèi che intorno stanno. Così quel dì che Zoppetto Zoppino venne col fiasco in mano il dio Vulcano, si sfasciò dalle risa quel che narrano papà Giove divino. Lasciamo questa storia, e se gli dèi fecero bene o male, e invece della favola tiriamo una morale, ed è che fra i viventi il numero maggior fu sempre ed è dei falconieri sciocchi che dei re pietosi ed indulgenti. Fine della favola, il re, il nibbio e il cacciatore. Questa registrazione è di dominio pubblico.